Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, dopo un po' di anni di attesa, è arrivato finalmente il sorpasso della Cina sul Giappone, quindi a tutti i livelli è anche ufficiale. La seconda economia del pianeta è quella cinese, resta la prima quella americana, anche se molti analisti ritengono che sia anche in questo caso un problema di qualche anno, ma il sorpasso è avvenuto. È avvenuto con una Cina che l'anno scorso è cresciuta del 10,5%, ossia quanto l'Italia riesce a crescere in 9 anni, 10 anni di PIL. Lo ha fatto in un anno solo. Una Cina che conosce anche un'inflazione che diventa via via più consistente. Ne parliamo oggi in apertura, visto che è ancora in corso la visita del premier cinese Hu Jintao a Washington. Ieri firmati accordi per 46 miliardi di dollari con Barack Obama, e quindi faremo una piccola ridizione di un programma di Radio 24, qualcuno se lo ricorderà, Jefferson Ming. Oggi faremo un piccolo Jefferson Ming, ossia la doppia sponda, quella asiatica e quella americana. Ancora, per quello che riguarda invece i dati sui giovani, molte email e sms sono arrivate dopo il nostro approfondimento di ieri con i dati Istat che fotografavano un'Italia all'ultimo posto in Europa sia come presenza delle donne nel mercato del lavoro sia come numero di giovani che né studiano né lavorano tra i 15 e i 24 anni. Addirittura sulle donne si è arrivati alla metà, una su due ha smesso di cercare lavoro o non lo cerca più oppure non ce l'ha. Comunque oggi alcune dichiarazioni interessanti, devo dire così, interessanti in senso neutro, del presidente dell'ABI Mussari, Giuseppe Mussari, che è anche il numero uno del Monte dei Paschi, l'ABI è l'associazione bancaria italiana, ha detto poco fa in un convegno della Fisac CGL: la protesta dei giovani è giustificata e presto rischia di arrivare nel salotto di casa nostra, e ha continuato: ai giovani abbiamo lasciato un furto che è il debito pubblico, è una truffa disegnando un futuro con aspettative non realizzabili che creano frustrazione. E ha continuato Mussari, che non è un sindacalista rivoluzionario, è il presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, ha continuato: se la situazione resta questa, la prossima protesta non sarà per un disegno di legge qualsiasi, ma arriverà nel salotto di casa nostra, i giovani verranno a tirare giù le televisioni dalla finestra del quinto piano e io li andrei ad aiutare. È incredibile, però insomma... questa è l'analisi di Mussari, e così ci lascia perplesso il fatto che lo dica un esponente come il presidente dell'Associazione Bancaria Italiana. Evidentemente ha degli elementi per dirlo, non è il primo osservatore che ritiene che si stia generando una specie di pentola a pressione per quello che riguarda le nuove generazioni, che lentamente monta e poi, se non trovano sfogo, rischia di scoppiare. Detto, e parleremo comunque dell'occupazione giovanile, perché nel frattempo, so che può far sorridere, mancano migliaia di pasticceri in questo paese. Un pasticcere, sorride dall'altra parte del vetro la nostra assistente, però un pasticcere guadagna 1.300 euro più o meno di primo impiego, ecco che sorride un po' di meno, e quindi ogni tanto anche incrociare domanda con offerta non sarebbe male, fermo restando il problema del disagio giovanile, fermo restando il futuro che non è più quello di una volta e un paese bloccato nella sua mobilità sociale. Di questo parleremo nella seconda ora del programma. Poi oggi chiaramente anche il tema del federalismo, perché i comuni italiani riuniti sotto l'ANCI hanno bocciato la parte che riguarda loro del progetto di federalismo fiscale. Adesso il ministro Calderoli ha detto che ci sta lavorando. Cercheremo di capire con il presidente dell'ANCI, che è il sindaco di Torino Chiamparino, che cosa ha lasciato di pietra i comuni e li ha portati a bocciare, a respingere al mittente la modifica in senso federalista del fisco e quindi anche dello Stato. La borsa come va? Più 0,40% in Milano, continua a essere anche oggi la migliore, perché Parigi perde lo 0,25, Francoforte lo 0,70, Londra perde l'1,76%, l'America perde mezzo punto percentuale, da noi è in calo tutto il gruppo Fiat, tant'è che Fiat Auto perde 3,70, Fiat Industrial, cioè camion e trattori, perde 4,5, Exor, la finanziaria di controllo del gruppo Fiat, meno 6%, ma la borsa va bene perché sono di nuovo forti i bancari. Intesa San Paolo più 3,40, Monte dei Paschi più 3,30, Unicredito più 2%, Ubibanca più 1,80, Azimut più 5,53%, Mediolanum più 3,73%. Ultima cifra, quella per i vostri sms, 349-238-6666. Via con le notizie in breve. Cala il petrolio, 3% di calo praticamente nel prezzo del petrolio, $88, sul timore che proprio l'inflazione cinese e quindi l'eccesso di crescita, c'è chi ha tanto e chi ha troppo poco, la Cina ha tanto, ha troppo, cresce troppo, quindi sta rischiando una forte inflazione, ci sono timori che il governo cinese a questo punto faccia un giro di vite e quindi metta sotto osservazione di una frenata questa crescita e quindi i consumi calino. Sulla base di questo ragionamento un po' così contorto, il mercato va a vendere petrolio. Parliamo fra poco della Cina, abbiate un po' di pazienza. L'America ha visto calare invece i sussidi alla disoccupazione con un dato migliore delle attese, sono scesi a 404.000, è il calo più importante dal febbraio del 2010. Dall'America, bilancio di Morgan Stanley, uno dei colossi bancari, ha chiuso il quarto trimestre 2010 con l'utile in crescita del 35%, ossia $836 milioni come utile netto, inferiore comunque il dividendo rispetto alle attese degli analisti, 26 centesimi. Ancora, per quello che riguarda la European Systemic Risk Board, cos'è? È un comitato europeo varato dall'Unione Europea che dovrà lanciare gli allarmi quando vedrà profilarsi una nuova crisi sui debiti sovrani dei vari paesi. Ebbene, ne faranno parte, oltre a Axel Weber e Anastasios Orfanides, anche il nostro Mario Draghi. Il presidente resta il presidente della Banca Centrale Europea, Jean-Claude Trichet. Ancora, la Banca Centrale Europea oggi nel suo bollettino di gennaio dice va bene, l'inflazione è sotto controllo in Europa, anche se resta la nostra attenzione. Restano le tensioni sui debiti sovrani, sui debiti dei paesi, Grecia, Irlanda e Portogallo in primo luogo, ma anche altri paesi dell'area euro, tra i quali, dice la Banca Centrale Europea, Spagna, Italia e Belgio. Federalismo, veniamo all'Italia. Allora, se Umberto Bossi oggi in transatlantico, quindi a Montecitorio, ha detto in sostanza ieri abbiamo sancito che se non passa il federalismo si va al voto, tra l'altro si stima, lo ha detto il ministro della semplificazione Roberto Calderoli, che i comuni collaborando per far emergere le cosiddette case fantasma, visto che avranno dei benefici anche per le loro casse, ebbene questa collaborazione con i comuni potrebbe far emergere 1,5 miliardi, questa è la stima di Calderoli, e tra l'altro è previsto che le sanzioni per chi non si mette in regola entro il 31 marzo quadruplichino, il 75% della multa poi andrà nelle casse dei comuni. Si spera che a questo punto i comuni, per carità, uno potrà anche preferire di chiudere gli asili e lasciare le case abusive, ma in generale forse se vuole essere rieletto meglio scoprire qualche casa abusiva, casa fantasma e tenere aperto qualche asilo, no? Niente IMU non solo sugli immobili, sede di culto, di proprietà della Santa Sede, ma anche per ospedali e cliniche legate alla Chiesa, scuole private, alberghi del mondo cattolico e oratori. È uno degli elementi che obiettivamente è un regalo alla Chiesa Cattolica, potete chiamarlo come volete, ma è uno degli elementi che ha fatto inalberare anche i comuni italiani, perché lo prevede l'ultima versione del decreto del federalismo fiscale sul fisco comunale, che mantiene anche per la nuova imposta comunale le stesse esenzioni già previste dall'ICI, l'IMU sarà la nuova imposta comunale. Adesso noi non ci occupiamo di tematiche Stato-Vaticano, però non si capisce perché non devono pagare l'ICI o l'IMU immobili come appunto ospedali, cliniche private legate al mondo cattolico, scuole private legate al mondo cattolico, alberghi del mondo cattolico. Io capisco la Chiesa, ma il resto... E vabbè, ma infatti su questo si sono inalberati i comuni, adesso Calderoli dice che forse praticamente porranno rimedio a questo decreto. Nel frattempo, quello che emerge oggi da una ricerca del Censis, ne parleremo più avanti, e dei commercialisti italiani, è che il federalismo non viene percepito dai contribuenti italiani come un'occasione di vantaggio per la pressione fiscale, anzi il 42% dei contribuenti italiani pensa che con il federalismo il carico fiscale complessivo tenderà ad aumentare. Eh sì, per l'81% poi degli italiani le tasse sono troppo alte, chissà chi l'altro 20% chi è, no, interessante questa cosa. E per il 36% degli italiani il fisco è ingiusto, per 6 italiani su 10 poi l'evasione fiscale negli ultimi 3 anni è aumentata, cioè il 60% degli italiani ritiene che sia aumentata, e per il 44% degli intervistati il principale problema del fisco si chiama evasione. Ancora una notizia, poi passiamo al primo tema di apertura, rapporto Cina-Stati Uniti. Gli ordinativi industriali in Italia, meno 4,3% purtroppo a novembre rispetto a ottobre, e quindi una frenata. Bene ancora rispetto a novembre del 2010 e del 2009, scusatemi, gli ordinativi alle industrie, che sono un dato importante perché da lì poi si capisce se sta ripartendo la macchina intera. Più 9,6%, però il ribasso, la frenata che c'è stata a novembre rispetto a ottobre è la più forte dall'agosto del 2009, ecco perché poi siamo entrati frenando nel 2011. Vedo che molti ci scrivono già dei pasticceri, beh, ne mancano 3.000, lo dicono le associazioni di categoria, eh. 3.000 pasticceri non mi sembra un mestiere, anzi mi sembra un mestiere bello, un mestiere dolce. Ti devi alzare le 2, mi dice il tecnico. Ho capito. Non è un mestiere facile, per carità. Ma meglio alzarsi le 2 che non alzarsi proprio, direi. Allora, adesso basta. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapporto Cina-Stati Uniti, o meglio, c'è questa Cina che rincorre e ha superato anche il Giappone, mentre oggi continuano gli incontri e prosegue la visita di Stato cinese in America, quindi il premio Hu Jintao resterà fino a domani. Per la precisione, Hu Jintao avrà oggi un insieme di incontri a Capitol Hill, quindi a Washington, e poi domani sarà a Chicago per incontrare la comunità finanziaria. Nel giorno in cui non solo il renminbi o il yuan è ai massimi da 17 anni sul dollaro, ma la Cina ha portato a casa l'anno scorso un più 10,3% di crescita economica, ha superato definitivamente il Giappone, e stando a questo tasso di crescita nel 2019, quindi tra 6-8 anni, la Cina supererà anche gli Stati Uniti. Pensate che solo qualche anno fa veniva indicato il 2027 come data del sorpasso. Adesso siamo già al 2019, quindi può essere che fra qualche anno anticiperemo ulteriormente il momento del sorpasso di un paese come la Cina, che è il primo creditore estero degli Stati Uniti, 895 miliardi di debito americano in mano cinese. C'è un altri 700 miliardi di debito europeo sono in mano cinese. E la banca centrale cinese ha il 25% di tutte le riserve valutarie mondiali. Un quarto di tutte le riserve in valuta al mondo sono in Cina. Volete sapere la cifra? 2.850 miliardi di dollari. Mario Platero in collegamento con noi dagli Stati Uniti, da un lato corrispondente Sole 24 Ore dall'America. Buonasera Mario. Buonasera. Grazie, anche ci colleghiamo con Shanghai, grazie perché è un'ora veramente improba per alcuni versi, con una conoscenza di questo programma, mi riferisco a Sauro Capozzoli, numero uno della IESA SRL, quindi grosso gruppo che in Cina aiuta le aziende italiane a delocalizzare, a comprare e a creare impianti produttivi in Cina. Buonasera, buonanotte anche a lei, Capozzoli. Buonasera a voi. Allora, Mario Platero, raccontaci la giornata di oggi. Hu Jintao non poteva arrivare con dei dati migliori in America, eh? Sì, Hu Jintao ha fatto... Oggi è la seconda giornata di visite. Ieri è stata la grande visita di Stato, l'incontro col Presidente Obama, la discussione da paese a paese. Ieri sera c'è stato un piccolo sgarbo perché né il capo della maggioranza al Senato né John Boehner, il nuovo Presidente della Camera, sono andati alla cena, non hanno accettato l'invito, è stata una specie di gesto di protesta, non sono andati alla cena di Stato della Casa Bianca. Intanto si sono persi qualcosa, perché poi sono delle prese di posizione che secondo me lasciano un po' il tempo che trovano, e questa cena pare che sia stata molto interessante e molto divertente. Ma la ragione principale, dicono, era per dare un segnale forte che il Parlamento continua ad essere preoccupato, continua a essere insoddisfatto dei progressi e delle rivalutazioni dello yuan, e dunque hanno voluto dare un segnale chiaro. Oggi Hu Jintao si incontra proprio con loro, ci sarà quindi l'incontro con i legislatori, col Parlamento, e sappiamo come in Parlamento ci siano almeno un paio di proposte di legge, una sostenuta dal senatore Schumer, che aleggiano per poter introdurre in qualunque momento delle tariffe, quindi delle misure protezionistiche contro le importazioni cinesi se la Cina non farà qualcosa per rivalutare lo yuan. Ecco, questo è un po' il dibattito politico di oggi. Il giorno dopo l'incontro si riflette, è stata una politica dei piccoli passi, ci sono stati dei progressi, Hu Jintao ha mostrato qualche apertura sul fronte dei diritti umani, dei diritti civili, però ha anche detto la Cina ha un suo percorso che deve seguire e quindi non ammettiamo alcune interferenze, ha esplicitato quello che sappiamo, cioè la Cina si trova in un momento in cui il rischio di forze centrifughe, nel momento in cui fosse introdotta la democrazia, queste forze centrifughe potrebbero prevalere e alcuni pezzi potrebbero perdersi per strada, cosa che non è né l'interesse degli Stati Uniti né in quello cinese. Allora, nel frattempo una cosa ve la voglio dire, perché il Giappone, questo è veramente asiatico come atteggiamento, ha lodato la Cina per averlo superato nella classifica, ha detto insomma è meritevole di lode il sorpasso cinese, riconosciamo gli sforzi compiuti per appunto per superarci nella classifica mondiale dei paesi che producono maggiore PIL. Sul ruolo della Cina come player economico, la nostra Deborah Rosciani oggi ha sentito a Salva Danaio lo Strategist Research di Mary Lynch, Corrado Caironi, ascoltiamo il suo giudizio. Allora, la Cina nel 2010 è stato una spina nel fianco un po' a tutta l'economia mondiale. Le ragioni erano due sostanzialmente. Il primo, questa mancata rivalutazione delle yuan che ha aperto una guerra sulle valute a livello internazionale. Quindi idealmente c'è uno sbilancio enorme a livello commerciale tra quella che è la politica della Cina, che è quella di cercare il più possibile di sviluppare la propria economia e di invadere quindi i mercati esteri, e dall'altra parte impedire a livello di competitività che la cosa succeda invece verso il mercato cinese, quindi una protezione dettata dallo yuan. Il secondo punto è la particolare attenzione alle materie prime e all'inflazione. Quindi sappiamo benissimo che la Cina è il maggiore consumatore di tutte le materie prime, difficile quindi per i paesi sviluppati riuscire a incidere, ad arginare questo aumento dei prezzi che in una fase molto difficile di ripresa economica non fanno sicuramente bene alle economie sviluppate. Quindi il 2010 sono stati questi due i punti di attrito tra le economie sviluppate e la Cina in particolare. Allora, insomma, Mario Pratera, una cosa, vedo anche i messaggi che arrivano al 349-238-6666. Capozzoli, abbia un po' di pazienza, tanto è notte lì, per cui le chiedo un po' di pazienza, diciamo, orientale, perché vorrei capire una cosa. Anche in Europa ogni tanto vediamo chi fa, come dicono a Napoli, fa la faccia feroce con i cinesi, tanto. Però questi senatori repubblicani, questa parte comunque del congresso che vuole imporre alla Cina qualcosa, ma si rende conto che i cinesi, se iniziano a vendere obbligazioni americane, cioè compiono il danno più grosso che possono fare gli Stati Uniti? Cioè, mi dispiace dirlo, ma quando la Cina ha 900 miliardi di debito americano, quando il deficit americano viaggia sopra il 10%, hai poco da fare la faccia feroce, o no? Ma no, io direi di no, perché questa è una cosa che circola in una situazione di questo genere. Lo dicevamo anche l'altro giorno, è meglio essere in debito che in credito. Gli Stati Uniti sarebbero ben felici di vedere un dollaro più debole per poter esportare più facilmente, e una vendita di queste obbligazioni, sì, ovviamente non farebbe piacere agli Stati Uniti, ma non farebbe piacere neanche alla Cina. Cioè, diciamo che se la Cina comincia a vendere queste obbligazioni, gioca contro se stessa, non è nel suo interesse. Quindi credo che quel punto di equilibrio è slegato da quello che è il dibattito concreto invece su esportazioni, importazioni yuan. Peraltro sullo yuan comunque una rivalutazione c'è stata, lo dicevamo anche l'altro giorno, in termini reali su base annuale a partire dal giugno scorso. Pensando al giugno prossimo si può parlare di una proiezione di rivalutazione di circa il 10%, quindi lo yuan in qualche modo si sta muovendo. Ultimo punto su Chicago, ovviamente è la città di Barack Obama, quindi un omaggio indiretto al presidente, ma è anche la città dove ci sono i grandi mercati delle materie prime, delle merci, e dunque sicuramente il presidente cinese farà un giro al Chicago Board of Trade, dove è così il cuore la più grande borsa mondiale delle grandi materie prime. Allora, questo è il fronte americano. Adesso vorrei spostarmi, ringraziando intanto Mario Pratera in collegamento con noi. Grazie Mario, vorrei spostarmi al fronte cinese. E quindi, Xaro Capozzoli, lei è un uomo, diciamo, di impresa, non è un analista, questo non è necessariamente un insulto, anzi in alcuni casi è più che un merito. Però quello che lei vede come attività quotidiana, quindi tutti i giorni, questa inflazione che temono moltissimo i cinesi, temono anche a questo punto i mercati delle commodity, visto che oggi il petrolio è caduto del 3% per timori che la Cina vada a stringere la vite su questa crescita. Ma voi la vedete? Cioè, la vedete quando dovete assumere una segretaria, quando lei deve comprare un immobile, far comprare un capannone, far assumere dei dipendenti qualificati? Chiaro, non stiamo parlando della manodopera che viene dalle campagne e basta. Cioè, c'è una tensione sui prezzi al consumo, ma non solo, anche alla produzione? Sì, certo. Noi comunque aiutando i nostri clienti a disegnare strategie che non sono solo a breve termine, anche a medio e lungo termine, dobbiamo affrontare ogni giorno queste tematiche, no? Anche diciamo che si parla proprio di cose concrete, non tanto di cose così teoriche. E vediamo che c'è una tensione sui prezzi, ma vediamo anche i nostri clienti che si sono già stabilizzati da anni, che notano questo incremento di costi, ma è dovuto principalmente all'esaurimento di quel cheap labor, no? Quel lavoro a basso costo che era disponibile fino a poco tempo fa. Mi scusi, ma da quello che so io, per carità, mi sbaglio, ma ci sono ancora 400 milioni di cinesi in campagna e non sono lì come la seconda casa, sono lì perché vorrebbero venire in città e uscire dalle risaie. Prego. Sì, ci sono, è vero questo, ma c'è anche una tendenza da parte delle città di ridurre questo flusso verso le città, perché stanno esplodendo. C'è una proiezione che dice appunto che nel giro di 10 anni ci saranno 15 città cinesi che avranno più di 25 milioni di persone. Questo è un fenomeno che i cinesi stanno cercando veramente di arginare, quindi ci sono delle politiche molto precise di ridurre l'afflusso di questi contadini, di cheap labor verso le città. Questo sta creando delle carenze e quindi un incremento del costo del lavoro, e di per sé poi quindi è un circolo che poi crea poi un incremento anche dei costi. Poi tutto questo è capitato in un momento di crisi dove le esportazioni si sono ridotte negli ultimi 2 anni rispetto ai flussi precedenti alla crisi, diciamo, no? E quindi molti produttori si sono rivolti verso il mercato interno, creando nuovi mercati. In Cina ogni giorno si apre un megastore, ma di quelli grandi, si parla di 300-400 negozi ciascuno, perché c'è un mercato interno che consume, comincia a consumare. Ecco, di questo prendessero atto anche molte imprese italiane. Continuiamo a fare le nostre puntate su questo e a raccontare chi va sui mercati, le imprese italiane. Qualcosa si sta muovendo anche tra gli italiani? Vengono un po' di più, Capozzoli? Diciamo, dopo un quasi un fermo totale nella prima metà del 2010, vedo che da settembre dell'anno scorso c'è stata una rampata, proprio stanno continuando a venire, ma vedo che sono progetti che si erano fermati per incertezze sulle strategie, diciamo, interne nel 2006-2007, stanno tornando tutti indietro, c'è chi si è fermato a vedere, ma vediamo cosa succede, no? 5 anni fa, sta tornando ora, ma in tutta fretta. Infatti, anche perché qua di domanda interna se ne vede gran poca, e qua dico in Europa, e quindi forse se fai Made in Italy classico, quindi mi riferisco alle 4A di Marco Fortis, tranne l'automazione, diciamo, quindi abbigliamento e alimentare soprattutto, ma anche arredo, legno arredo, forse conviene esserci in quei mercati, visto appunto che, come ricordava, no, a noi queste cifre fanno sempre impressione, perché qua per fare 2 fermate alla metropolitana ci mettiamo 5 anni, lì aprono un megastore ogni quanto? Ma ogni giorno c'è un megastore che apre in Cina. Ma la cosa sulla metropolitana, vi dico un dato: Shanghai nel giro di 8 anni ha superato Londra come chilometri di metropolitana, è passato da 3 linee a 11 in 7 anni, e a breve ha ricevuto 8 linee. Adesso arriva Milano con l'Expo, per cui piano con la classifica. devo dare il metodo alla pubblicità, visto che ogni tanto me la prendo con alcuni ascoltatori che ci insultano in maniera delle volte quasi inaccettabile. Invece vorrei dire grazie a tutti quelli che si sono ricordati che oggi è San Sebastiano, a tutti i Sebastiani, se ne fosse ricordato qualcuno a Radio 24, nessuno, solo gli ascoltatori. Meteo e pubblicità, poi di nuovo sulla Cina. ...17:40 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, sto sorridendo perché c'è chi è riuscito, un ascoltatore, a fare gli auguri per l'onomastico, ma a chiedere le mie dimissioni nello stesso tempo. Auguri, ma si dimette, perfetto. Allora, Saro Capozzoli, in collegamento da Shanghai, chiudiamo con... Ho capito che l'inflazione preme perché da un lato non si riesce più a far arrivare manodopera a basso prezzo dalle campagne verso la città, perché le città iniziano a esplodere, e dall'altro anche perché i cinesi, fortunatamente per noi, si sono messi a comprare e a consumare appunto un megastore al giorno, quindi 300-400 negozi al giorno inaugurato nel paese. Il tema delle materie prime, le risulta che vi siano anche degli accordi bilaterali con Argentina e Birmania per iniziare a acquistare materie prime in valuta cinese, quindi con lo yuan? Questo già da più di un anno, specialmente con i paesi sudamericani, hanno incominciato con l'Argentina, accordi di utilizzo del RMB, la valuta locale cinese, per lo scambio di prodotti, si va dalla materia prima come alimentare, ma anche a livello minerario. Infatti ci sono discussioni avanzate anche col Cile, già con la Birmania, ma anche con la Thailandia, ci sono degli accordi bilaterali in cui si bypassa completamente il dollaro per poter ragionare in termini di valute più vicine all'RMB, che è una valuta, ripeto, non è convertibile ufficialmente, però essendo gli scambi commerciali così intensi si fa uno scambio appunto di beni, però ragionando tutto in RMB, e questo è qualcosa che rende molto nervosi gli analisti, ma anche gli americani specialmente, perché l'obiettivo cinese è quello, e non è nascosto, è dichiarato, quello può di arrivare a pagare il petrolio in valuta locale. Vedo molti messaggi, chiudiamo su questo, Capozzoli, sulla presenza o percezione del Made in Italy in Cina, visto che lei abita, mi sembra, 14 anni in Cina, ci dica se è migliorato, visto che continuiamo a condurre questo ciclo di appuntamenti con gli imprenditori che vanno in Cina e addirittura acquistano anche aziende cinesi, o comunque vanno in Cina a vendere quello che i cinesi vogliono, non quello che piace a noi, ma quello che piace ai cinesi, chi se ne frega dei gusti, l'importante è vendere. È migliorato qualcosa? Perché tutte le volte che torniamo, lei è sempre uno scettico, Stia attento che lo do al gufo, No, ma premetto che sono qui da più di 20 anni, però ho visto una Cina molto diversa da quella che è adesso. E diciamo che sono state fatte delle analisi ultimamente, anche dal Politecnico di Milano, dove vengono fuori delle cose sorprendenti. Cioè, noi siamo molto sicuri e certi di certi nostri simboli, come per esempio la Ferrari. La Ferrari che cui ne vendiamo 25-30 al mese a Shanghai, sulla Shanghai, da un sondaggio fatto di recente durante l'Expo, esce fuori che la Ferrari è percepita come un prodotto tedesco. Ferrari è percepita come un prodotto tedesco? Perché sì, perché Schumacher è stato pilota per molti anni, quindi secondo me da qualche parte... E la pizza magari americana? No, chiedo. La pizza, qui se si parla di pizza si parla di Pizza Hut, che è americana, il gelato è Häagen-Dazs danese e il caffè espresso è Starbucks. Questo perché c'è una questo mi fa incavolare come una bestia, come una biscia argentina. Siamo assenti, come possiamo fare tante iniziative sporadiche, ma finché non c'è una politica strutturata di sistema che porti i nostri prodotti in maniera proprio organizzata e non da iniziative così isolate che poi molto spesso naufragano. Vediamo il caso di Piazza Italia, che è un buco di 9 milioni che non si sa bene come, che cosa è successo, e noi rischiamo di perdere veramente la nostra immagine. Mi sta deprimendo, Capozzi, vai avanti. Siamo molto forti però per quanto riguarda il lusso. Tanto è vero che noi abbiamo una cosa buffa: Louis Vuitton è associato all'Italia. Almeno i francesi associano il lusso, la moda, l'eleganza all'Italia, e questo porta un po' di punti a nostro favore. Intanto anche perché ci stiamo aprendo veramente decine, se non centinaia, di negozi italiani di alta moda, e questo fa molto bene al nostro export. Bene, poi nella meccanica sappiamo. A chi scrive: non voglio sapere quanti morti ci sono stati per fare la metropolitana cinese. Io insomma ricordo di aver visitato anni fa la linea della metropolitana in costruzione a Shanghai, la linea numero 7, 8, non mi ricordo più, o 4, perché Ansaldo STS aveva partecipato a tutta la segnaletica. Devo dire che mi sembrava una cosa assolutamente normale, cioè operai con l'elmetto. Capozzoli, sono ancora così critiche le condizioni di lavoro nelle città? Poi in campagna immagino che sia diverso. Ci sono anche morti bianche molto frequenti anche in Italia, ci sono anche lì. Diciamo che le norme sono molto, diciamo, per la salvaguardia dei lavoratori sono molto avanzate. C'è un discorso che c'è il carcere per chi non fa rispettare, il carcere sicuro per chi non fa rispettare le norme, questa è una differenza. Diciamo che per la metropolitana di Shanghai, perché io vuol sapere, quando ho fatto 480 km di metropolitana praticamente in 10 anni, sono morte 3 persone. Ecco, per incidenti che potevano capitare probabilmente anche in Europa. Io sulla cifra delle 3 starei cauto, Capozzi, perché poi lei, a forza di stare in Cina, mi diventa più cinese. Però comunque sono d'accordo, quello che abbiamo visto sono effettivamente condizioni molto diverse da quelli che qua immagino i cinesi, certo, lì con le bacchette, la bicicletta e l'ombrellino. Attenzione che poi, come scrive un ascoltatore, finirà che faremo noi massaggi ai cinesi sulla spiaggia. Non male. Grazie e buonanotte veramente a Saro Capozzoli in collegamento. Grazie. Da Shanghai, sì, confermo, personalmente trovo che non vi sia nessun motivo, cambiamo tema, per levare l'ICI o IMU, come si chiamerà, non tanto ai luoghi di culto, quindi chiesa cattolica o protestante, poco importa, ma agli alberghi, agli ospedali di proprietà della chiesa cattolica. Ma perché un albergo, un ospedale, chi se ne frega chi è il proprietario? Cioè, se deve pagare l'ICI o quella o la futura ICI, le devono pagare tutti. Non capisco perché uno Stato laico debba distinguere sulla base della religione. Allora facciamo non pagare anche gli ospedali, gli alberghi protestanti o quelli musulmani. Veramente non capisco. Ma questo ha creato molta tensione tra i sindaci e il governo, tant'è che Calderoli ci sta ripensando. Ce ne occuperemo dopo i mercati. Adesso il traffico, la borsa. Milano l'unica tra le borse europee a chiudere in maniera positiva, male Fiat ed Exor, bene le banche. E poi il federalismo. 349-238-6666 per i vostri sms. La borsa allora, più 0,40% Milano, negativa dello 0,3% Parigi, dello 0,80% Francoforte, dell'1,80% Londra, meno 0,44 anche l'America, l'euro sempre fortino, 1,34, fortino, che brutta espressione, 1,34 sul dollaro, molto bene Azimut, quindi risparmio gestito più 6,30%, in Mediolanum anch'essa risparmio gestito più 3,90%, Intesa San Paolo più 3,5%, Monte dei Paschi più 3,3% come Generali, Unicredito più 2,2%, poi bene anche Enel più 1,5%, Ubibanca più 1,40%, A2A più 1,1%. Perde invece Xor e tanto, il 6%, Fiat Industrial meno 5%, Fiat meno 3,80%, Saipem meno 4,90%, Tods meno 3,30%, Pirelli meno 3,20%, Prismia meno 3% come Steam Microelectronics, Campari meno 2,3%, Luxottica meno 2,1%, Autogrill meno 1,3% come Mediaset, infine Tenaris perde l'1,1% come Bulgari. Livia Zancaner, buonasera. Buonasera. Allora, per quello che riguarda il mercato oggi, insomma, è la seconda seduta in cui noi ci muoviamo in controtendenza e il motivo lo vediamo chiaramente, si chiama bancari. Come mai di nuovo le banche e come mai Fiat così male? È finita la festa su Fiat, hanno un po' speculato dopo il debutto di due titoli e adesso lasciano i piccoli risparmiatori col cerino e i grandi escono? Allora, bisogna sottolineare innanzitutto che insieme, oggi i destini sono stati penalizzati anche dal calo di tutto il comparto auto, quindi che ha perso oltre il 3%, ma la Galassia Fiat, come vediamo, ha nettamente sottoperformato il settore. Per quanto riguarda Xor, le azioni hanno iniziato a scendere dalla chiusura dell'11 gennaio, hanno perso più o meno il 13% e comunque nonostante la perdita di valore di queste ultime sedute, la somma, quindi la somma dei due prezzi, quindi di Fiat SPA e di Fiat Industrial, resta comunque superiore al prezzo pre-spin-off che ricordiamo era di 15,43 euro per tutto il gruppo Fiat. Allora, secondo gli operatori, il finora titolo Fiat è stato sostenuto dall'andamento del gruppo in Brasile e dalle attese per l'incremento della quota in Chrysler e una futura quotazione della società americana in futuro, però sottolineano appunto dalle sale operative l'unico modo per migliorare i margini per la Fiat sarà tornare ad avere una redditività consistente in Europa, anche perché in Brasile la competizione sta diventando più dura, il gruppo ha iniziato a perdere quote di mercato, quindi comunque si è sgonfiata un po' l'euforia post spin-off e quindi tutte le attese riguardo più che altro che riguardavano più che altro operazioni straordinarie, ma ora probabilmente il mercato, certo, guarda più fondamentali. No, ma infatti la mia era solo malizia, perché sai che delle volte abbiamo visto che i grandi investitori istituzionali comprano il titolo, sale, abboccano i piccoli come i piccoli abboccano escono i grandi, ma sicuramente non è successo questo su Fiat, ci mancherebbe. Allora Saipem meno 4,90 e anche Tenaris oggi debole. Sì, allora oggi i petroliferi hanno mostrato un andamento piuttosto debole in tutta Europa, il comparto energia ha perso oltre il 2%. Il prezzo del petrolio, bisogna dire che sta scendendo, ora è in calo più o meno del 2,7% e quota sotto i 90 dollari al barile. Poi in particolare per quanto riguarda Saipem, allora gli operatori sottolineano che gli investitori in un momento ancora incerto per l'economia preferiscono quindi trarre profitto, nonostante ci siano comunque buone prospettive sul settore, considerando che il valore della quotazione di Saipem è praticamente quadruplicato rispetto ai minimi di fine 2008. Infatti se ora guardiamo, il titolo ha chiuso a 35 euro, quindi più o meno quadruplicato. Per quanto riguarda Tenaris, il titolo ha mostrato comunque un andamento debole, ha chiuso con un ribasso dell'1,1%, anche se la società ha negato le voci di allarme sui conti che saranno pubblicati poi a febbraio. Allora, per quello che riguarda invece altri settori, intanto vi do i migliori e i peggiori, avete ragione, non ve li ho ancora dati. Capely Asset Investment, dunque, fa praticamente il 13,7%, Grandi Viaggi il 10,90%, Seat Pagine Gialle più 8,5%. Novità su Seat? Allora, su Seat Pagine Gialle non ci sono novità che giustificano l'andamento del titolo, bisogna dire che aveva perso veramente tanto, sì, oltre no, ma basta anche dire no. Ah, ok. Perfetto. È accettato dal programma. Azimut più 6,30, Tiscali più 3,93. Fronte opposto invece Neurosoft meno 7,1, Poligrafica San Faustino meno 6,6 e si è sgonfiato un po' Unione Alberghi Italiani, la debuttante di ieri, meno 6,5, molto ieri aveva guadagnato, De'Longhi meno 5,90%. Edison, Livia, il rinvio del consiglio di amministrazione, lì c'è un problema di governance, come dicono quelli che hanno studiato, ossia i soci francesi, i soci milanesi, bresciani, che insomma non si mettono d'accordo. Il rinvio del CDA ha avuto un effetto sul titolo? No, non ha impattato un granché. Infatti, vabbè, oggi è stata una giornata nervosa per tutti i titoli, però Edison alla fine ha virato in positivo appunto sul finale di seduta e ha chiuso a più 0,35, quindi diciamo che la notizia non ha avuto un gran impatto sulle quotazioni. Ancora invece chi è andato bene? Le banche, diciamo, in generale, però dobbiamo chiarire il tema di Azimut, perché insomma il 6,30% anche Mediolanum non va bene, ma non è cosa da tutti i giorni. No, allora, in realtà dalle sale operative non hanno sottolineato particolari movimenti sul titolo, però le azioni praticamente dal 10 gennaio hanno guadagnato oltre il 15%, quindi si può parlare comunque di un recupero. Bisogna sottolineare anche un'altra cosa, che secondo appunto gli esperti, comunque gli operatori, stanno recuperando terreno quei titoli che hanno corso meno rispetto agli altri, e questo vale soprattutto per i finanziari, che comunque hanno guadagnato meno nell'ultime settimane rispetto ad altri settori come, non so, gli industriali e i petroliferi, e dicono che questa tendenza potrebbe continuare. Perfetto, Livia, grazie. Grazie a voi. Beh, non ho mai fatto gli auguri di buon onomastico, ma non importa, tanto sei in scia con tutto il resto della radio, di Radio Core, tutti che ce l'hanno col sottoscritto. Invece dopo il GR parliamo dei 3.000 posti da pasticcere che dicono i pasticceri sono a disposizione, visto che parliamo sempre di occupazione giovanile. Ho capito che uno che vuol fare un altro lavoro magari non vuol fare pasticcere, ma meglio fare qualcosa che stare a casa. E parliamo anche di questa esenzione per tutti i beni cattolici, alberghi, hotel, ristoranti, che ha fatto arrabbiare i comuni italiani, e il tentativo di trovare un compromesso con l'ANCI. 349-238-6666 per i vostri sms. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, già vi raccontavano gli sviluppi, i nostri GR, di quello che è stato, per carità, Alemanno dice non è stata una bocciatura, però insomma, qualche tensione si è verificata. Le prime agenzie dicevano i comuni bocciano il federalismo, Bossi che aggiungeva o passa il federalismo o si va al voto. Che cosa è successo? Praticamente, da un lato, non è solo la IMU, anche se, ripeto, secondo noi non si capisce perché l'IMU sarà la nuova ICI, no? Non verrà pagata sugli immobili di sede di culto e di proprietà della Santa Sede, cioè sede di culto va bene, ma la proprietà su ospedali, cliniche legate alla Chiesa, scuole private, alberghi del mondo cattolico e oratori, non si capisce perché debbano essere esenti, visto che gli altri ospedali, alberghi e scuole, anche in concorrenza, anche privati, la pagano. Ma insomma, che cosa è successo? È successo che il testo del federalismo fiscale per la parte che riguarda i comuni non è piaciuto agli stessi comuni. Vari aspetti, anche se poi ripeto, il presidente della regione Piemonte Roberto Cota, a margine della conferenza delle regioni a Roma, ha detto dà forti prospettive questo federalismo agli enti locali. Non va assolutamente invece, secondo il presidente dei sindaci italiani dell'ANCI, mi riferisco a Sergio Chiamparino, che ha chiesto al governo di apportare gli opportuni chiarimenti quanto prima. E allora il nostro Paolo Piacenza ha raggiunto Sergio Chiamparino dopo l'incontro con il ministro Calderoli, il ministro della semplificazione, un Chiamparino a questo punto un po' più possibilista, che però ha spiegato che cos'è che non va in questa struttura del federalismo fiscale secondo i comuni italiani. Dunque, l'incontro è stato ovviamente interlocutorio, perché era un'interruzione della commissione bicamerale, c'era anche il presidente La Loggia che ci ha ospitato. Gli abbiamo rappresentato i punti principali del documento di stamattina. Allora, uno che riguarda l'assetto a regime del nuovo tributo IMU, che è la questione che nel testo è previsto che l'aliquota di questo tributo venga fissato di anno in anno dalla legge di stabilità, il che è un palese non senso, e se rimanesse così sarebbe una lesione di autonomia pazzesca, cioè, perché vorrebbe dire che la legge finanziaria stabilisce qual è l'entrata fiscale che dovrebbe essere autonoma dei comuni, no? Vorrebbe dire, per dirla in un termine più rozzo, che ogni anno i comuni devono venire a Roma col cappello in mano sperando che il governo decida un'aliquota sufficiente per i loro bilanci. Cioè, voi ritenete che sia un'autonomia contrattata, non reale? È un'autonomia lesa, perché ci obbliga ogni anno a venire col cappello in mano, né più né meno di quello che è avvenuto in questi anni. Quindi, francamente, voglio dire, peggio dell'ICI, perché l'ICI almeno si sapeva che c'erano delle aliquote base che si potevano variare entro un certo range e c'era un'autonomia. E noi diciamo semplicemente si faccia la stessa cosa. Non è che proponiamo la luna, cioè diciamo si faccia, dato che è un restyling dell'ICI, il tributo IMU, allora si faccia il restyling pieno, se si metta un'aliquota quella giusta per garantire la base imponibile che è necessaria a concorrere alla montata delle risorse che devono essere date al primo anno, e poi su quella base si lasci un margine di autonomia ai comuni. Non era l'unico punto su cui avevate delle contestazioni, vero? Questo era il principale regime, insieme a quello del fondo di perequazione, perché il fondo di perequazione non si capisce da chi sia fatto e con quali risorse. Poi ci sono le cose immediate. Noi abbiamo detto più volte, abbiamo posto tre punti nell'immediato. La questione dell'imposta di soggiorno: è assurdo escludere i comuni, perché per adesso, come è fissata, riguarda solo i comuni capoluogo di provincia, che sono a volte quelli che ne hanno meno bisogno, perché chi ne ha più bisogno è il comune di 500 anime, che d'inverno diventa un comune di 10.000 turisti, e i 500 pagano per tutti i 5.000 la spazzatura, eccetera, eccetera. No? Quindi abbiamo detto per tutti i comuni, e soprattutto da subito, perché così come l'aliquota IRPEF, l'addizionale IRPEF, cioè ce l'abbiamo, ce la si lasci usare da subito almeno entro un certo margine. Queste sono, diciamo, le cose essenziali che abbiamo detto. E cosa va risposto Calderoli? Ma la risposta è stata, Calderoli è sempre, si dimostra sempre molto comprensivo nelle nostre ragioni, poi però i testi, quando passano attraverso il filtro della collegialità di governo, escono diversi, quindi adesso poi qui l'interlocutore era la commissione, e vediamo. Noi abbiamo detto chiaramente, nel documento nostro si propone di un approfondimento di alcuni temi. Se alla fine dalla commissione esce una cosa che dà risposta a questi problemi, noi siamo soddisfatti, se no no, è semplice. Comunque l'idea di tornare a una conferenza unificata è impossibile, secondo Calderoli. Questo ci è stato detto che è impossibile, e quindi noi ne abbiamo preso atto, e non vogliamo interferire nell'autonomia delle sedi istituzionali, ci mancherebbe altro. Ecco, è chiaro che c'è anche un aspetto politico. Poco fa, insomma, sono uscite diverse agenzie in merito all'intervento del Terzo Polo, che sta cercando, proponendo di allungare i tempi dei decreti attuativi sul federalismo, e evidentemente anche perché c'è un rilievo politico, insomma, su questa partita del federalismo si gioca anche la stabilità di governo. Quanto questo condiziona la partita, quanto può essere utile allungare i tempi dal punto di vista dei comuni, ovviamente, anche perché la vostra posizione al momento è unitaria, no? Mi sembra trasversale. Unanime. Quindi il documento è stato approvato in modo unanime. Ma guardi, se prendere tempo serve per darci risposte positive ai punti che abbiamo proposto, ben venga l'allungamento dei tempi della delega. Io non sono, ripeto, l'ANCI nelle vicende più politiche non vuole essere tirata né da una parte né dall'altra. Noi abbiamo fatto una proposta di percorso istituzionale, abbiamo fatto delle proposte di emendamento, in sostanza, e quindi se sul percorso non è possibile, decidano loro. L'importante è cosa ne viene fuori a questo punto. Noi, se dovesse affidarsi al suo istinto, è fiducioso o no? Ma guardi, io sono fiducioso sul fatto che possa essere accolto il cambiamento che abbiamo proposto sull'assetto a regime, perché è un vero e proprio non senso far sì che c'è una tassa autonoma dei comuni che viene definita di anno in anno dalla legge di stabilità, cioè è quasi un'umiliazione. Sono invece meno fiducioso sul fatto che ci si dia la possibilità di utilizzare alcune leve fiscali autonome fin dal 2011. E però lei capisce che questo per noi è dirimente, perché i bilanci noi non li possiamo fare con i decreti attuativi, li dobbiamo fare con delle risorse vere. Quindi, come ha spiegato molto bene il sindaco di Torino nella sua qualità di presidente dell'Associazione dei Comuni Italiani, i problemi sono su alcune norme, per esempio quelle che escludono i comuni più piccoli, cioè quelli non capoluogo, dalla tassa di soggiorno. Devo dire che l'esempio che faceva Chiamprino obiettivamente aveva più di una logica, ma anche i tempi. Loro vogliono sapere, visto il giro di vite che hanno ricevuto anche in questa finanziaria comuni e regioni, quando potranno iniziare a applicare questi tributi, quindi ad averli in cassa. Non è la stessa cosa, l'abbiamo appena sentito dire, 2012-2013 per un comune che deve chiudere i bilanci. Adesso c'è il traffico, poi vi confermo che parleremo dei 3.000 posti di lavoro per un pasticcere. Molti di voi ci hanno scritto, tra l'altro, ma insomma, beh, molti ci hanno scritto una laurea in scienze politiche, in lettere, in quant'altro, vorrei fare il pasticcere. Come si fa? Altri che sono stati espulsi dal mercato del lavoro hanno detto, ma insomma, ho 51 anni, ho fatto il manager, però vorrei fare il pasticcere. Qualcuno ci ha anche fatto notare che non è più vero, cosa che io ho detto all'inizio, che sia un lavoro in cui ti devi svegliare prestissimo alle 2 di notte. C'è chi dice che con la nuova tecnologia ci si può svegliare anche alle 5 e mezza, che per carità non è il massimo della vita, ma è sempre meglio delle 2. Federico Anzellotti, presidente della Conpait, tra poco sarà nostro ospite, la Confederazione dei Pasticceri Italiani. Adesso però il traffico. ...18-19 minuti, allora, in tema di occupazione o disoccupazione giovanile, ieri abbiamo dato il dato dell'Istat, cerchiamo di capire anche come non si incrocia delle volte la domanda con l'offerta. A chi dice siete contro il federalismo, ma secondo me ha ascoltato un altro programma. Noi da sempre siamo favorevoli al federalismo quando è responsabile. Hanno ragione però a dire attenzione che sul fondo perequativo, cioè quello che deve andare a colmare le differenze per non creare troppi squilibri all'inizio, ancora non c'è molta chiarezza, ma il federalismo fiscale va benissimo. Facciamo notare che il 70% del deficit, diciamo, delle regioni e degli enti locali si chiama sanità, quindi l'importante poi è colpire esattamente la spesa sanitaria, se no il resto sono chiacchiere. Ma insomma, 3.000 posti di lavoro nel mondo della pasticceria, in un paese che ieri, lo abbiamo scoperto dall'Istat, ha il record europeo di disoccupazione giovanile, anzi di chi non studia né lavora tra i 15 e i 24 anni, sono 1 su 4, e il record di non occupazione femminile, 1 su 2. Allora, siccome vedo delle contestazioni che obiettivamente non capisco, nessuno sta dicendo, alcuni scrivono, ma insomma se lei quando voleva fare giornalista, se le avessero offerto di fare il pasticcere l'avrebbe accettato nello stesso modo, ma nessuno sta dicendo che tutti nella vita vogliono fare i pasticceri, si sta solo dicendo, visto che un mese e mezzo fa la Confartigianato ha detto ci sono 100.000 professioni in questo paese che non hanno posti perché non le vogliono fare, non, nessuno vuole fare più l'artigiano. Oggi ci ha incuriosito la notizia che, voglio dire, a Rimini, tra l'altro, si apre da sabato 22 al 26 gennaio la 32esima edizione del Salone della Gelateria, Pasticceria e Panificazione Artigianale. 100.000 visitatori, 115 paesi presenti. Noi siamo leader in molti di questi settori, panificazione, pasticceria e quant'altro. Beh, insomma, è strano vedere che ci sono settori. Cosa c'è di male nel fare il pasticcere? Lo sanno solo alcuni ascoltatori. Ho capito che uno che ha studiato per fare altro magari non vuole fare subito il pasticcere, ma voglio dire, parliamo di un giovane quasi su 4 che non studia né lavora, allora dovete spiegare a questi qui che cosa volevano fare nella vita, gli astronauti? I genitori li prendessero e li mandassero a fare qualunque lavoro, a maggior ragione un lavoro che a me piace moltissimo. Allora, presidente della Conpait, Federico Anzellotti, buonasera. Buonasera a lei e buonasera a tutti gli ascoltatori. Ma insomma, com'è che voi non trovate 3.000 pasticceri? Quanto prende un pasticcere quando entra in primo ingresso? Il primo ingresso inizia da 1.000-1.100 euro, quindi anche un buon stipendio. Ma con prospettive di? con prospettive di 2.000-2.500-3.000 al mese. Ok. E poi ecco, c'è un messaggio di quelli che mi fanno... Non volevo arrabbiarmi oggi, caro mio onomastico. Comunque, ah, già la vedo lei a dire con orgoglio agli amici: mia figlia fa la pasticcera. Guardi, non ne voglio parlare da giorni, però meglio 20 milioni di volte dire mia figlia fa la pasticcera che mia figlia fa qualcos'altro, visto che è una settimana che ci occupiamo di genitori che mandano le figlie a fare qualcos'altro. Ma mi faccia il piacere. Allora, adesso mi rirassereno, perché sennò mi tocca anche commentare altri tipi di giovani che fanno altre cose, e veniamo alle cose serie. Come mai mancano 3.000 pasticceri? Allora, mancano 3.000 pasticceri in quanto la nostra professione è stata sempre vista come una professione disagiata. Oggi, fortunatamente, grazie anche alle tecnologie, il pasticcere non è più quella persona che è buttato in laboratorio e non fa vita sociale. Il pasticcere è un lavoro, e lo dico con orgoglio perché rappresento questa categoria a livello nazionale, è un pasticcere che sta dietro ogni azienda che si occupa di alimentazione dolciaria. Il pasticcere è quella persona che entra in laboratorio non più alle 2, ma 5:30, 6, 6:30 anche alcune volte nei laboratori veramente tecnologici. Il pasticcere è quella persona che fa consulenze alle grosse aziende di dolciarie, quindi è una prospettiva a 360 gradi. Non è più l'artigiano che è in bottega e che si diverte a mischiare zucchero e farina. Il pasticcere oggi deve essere un professionista, un esperto dell'alimentazione, un esperto delle materie prime, e c'è studio dietro. Oggi purtroppo in Italia non c'è una formazione pubblica, ma con questa riforma tanto discussa siamo riusciti anche a mettere dentro questa formazione pubblica, perché crediamo che una formazione pubblica fatta da professionisti per il settore arte bianca, perché in fondo la pasticceria si inserisce in un settore arte bianca, quindi pasticceria, gelateria, panetteria e pizzeria, crediamo che una formazione pubblica possa risolvere il problema occupazionale di molti giovani. Quest'anno l'abbiamo lanciato una sfida per far vedere anche la bellezza della pasticceria. In occasione del Salone Internazionale del SIGEP ospitiamo il campionato del mondo juniores a squadre, dove i ragazzi per 2 giorni si cimentano a fare sculture e a fare innovazione di una pasticceria tradizionale. Quindi la pasticceria non è solo più il laboratorio, ma è un mondo veramente sì, ma poi voglio dire, ma guardi che lei non deve mica giustificarsi, cioè è così un po' uno sciocchino chi scrive: ah, che vergogna fare il pasticcere, visto che vediamo genitori che mandano le figlie a fare dell'altro. Io i pasticceri li adoro. Tra l'altro, non mancano solo 3.000 pasticceri in questo paese, mancano 147.000 posti di lavoro tra panettieri, sarti, falegnami, camerieri, baristi, muratori. Se poi questi lavori fanno schifo, perché è meglio laurearsi in scienze della comunicazione e poi andare a lavorare nello show business, facessero quello che vogliono, ogni genitore ha le figlie che si merita, ci mancherebbe, e ogni figlia ha i genitori che purtroppo non sempre si merita. Un'ultima domanda, l'apprendistato, perché devo chiudere, vogliono sapere molti ascoltatori, anche persone che sono uscite dal mercato del lavoro a 50 anni, qual è l'apprendistato per fare un lavoro bellissimo come quello del laboratorio di pasticceria? Allora, noi abbiamo 2 strade. Un minuto. Un apprendistato pubblico, che è quello, diciamo, legato dalla legge, quindi fino a 24 anni, ma come associazione diamo opportunità attraverso una nostra formazione per quanto riguarda chi vuole rigenerarsi, cioè chi vuole comunque aprirsi a questa professione. Un'ultima battuta, sempre per quanto riguarda questi giorni: realizziamo in questa occasione la torta per i 150 anni dell'Unità d'Italia. Oh. 25 metri per 20, 3.300 kg a forma d'Italia, con i monumenti più belli italiani riprodotti. Sta avendo una fame incredibile. La pasticceria è anche questa. Grazie, grazie, in bocca al lupo, anche perché si apre appunto il salone dedicato alla pasticceria, alla panificazione, e 3.000 posti vacanti, 1.100 euro l'ingresso. Il primo salario, non vogliamo diventare un'agenzia di collocamento, ma insomma, chiudiamo sorridendo questo collegamento di un ascoltatore che scrive: meglio fare il pasticcere che travestirsi da meringa. Grazie. Grazie. Allora, Giuseppe, tornato da Strasburgo. Mi fanno arrabbiare qui. Quando mi scrivono certe cose. Dimmi, sai, perché qua sembra che tutti i laureati, tutti i dottori, lo farei subito il pasticcere. Magari a breve decideremo queste cose. Dai, temi. I soliti temi. Secondo te, di cosa si parla ancora di pasticceria, oggi? Di lavoro giovanile? Sicuramente di lavoro giovanile, però di un genere completamente diverso. Beh, parleremo ancora della vicenda di Ruby e dintorni. Vabbè, stai sul vago che è meglio, così manteniamo un tentativo di serietà nel finale. Grazie, noi ci sentiamo domani, un buon augurio di buona serata da Sebastiano Barisoni dalle 17 in poi con l'ultima puntata di Focus Economia della settimana. Radio 24, la passione si sente.